Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Un saluto a Peter Bescapè in regia la parte tecnica. Come sempre Laura Vanossi ci assiste in redazione. Andiamo subito ai titoli del nostro sommario. Strani messaggi del corpo. Parliamone per capire il loro significato. SOS rughe della fronte. Broccoli, un toccasana per lo stomaco. Prima di affrontare l'argomento del giorno, torniamo ad occuparci dell'influenza H1N1, detta suina o messicana. È arrivata anche in Italia, due casi al momento accertati, ma la buona notizia è che entrambi sono guariti. In linea con noi è tornata a trovarci la dottoressa Stefania Salmaso, direttore del Centro di Epidemiologia dell'Istituto Superiore di Sanità. Dottoressa, buongiorno e bentornata. Buongiorno. Dottoressa, il quadro clinico dei pazienti rassicura, direi. Sì. In effetti abbiamo osservato fino adesso che di tutti i casi esportati dal Messico, quindi in situazioni abbastanza particolari, però non ci sono stati decessi né sintomatologie particolarmente severe. Quindi questo che cosa ci porta a pensare? Possiamo tirare un sospiro di sollievo? Nel caso arrivasse proprio anche in Italia, sarà molto smorzata l'effetto di questo virus? Che cosa prevedete voi? Beh, di fatto l'allarme pandemia non è legato alla diffusione di una malattia clinicamente molto severa, sì, necessariamente. Quindi non bisogna immaginarsi che quando si parla di allarme pandemia si parli di una situazione proprio pestilenziale. Disastrosa, sì. Quelle disastrose. Però è anche vero che la diffusione di un'infezione così contagiosa su scala mondiale in un momento in cui non è stagione invece di influenza stagionale per noi, potrebbe essere comunque un problema, perché metterebbe a letto moltissime persone. Quindi diciamo che l'allarme pandemia a livello organizzativo rimane, stiamo tutti lavorando, ci stavamo preparando da anni alla diffusione di virus di questi tipi e quindi la macchina della risposta è già in moto. Quindi, dottoressa, l'allerta rimane, ma noi, il singolo cittadino, non dobbiamo fare nulla. Insomma, possiamo dire state lavorando per noi e noi non dobbiamo prendere iniziative. Senz'altro, tutto questo bombardamento di comunicazioni non deve generare panico, ma è semplicemente una necessità alla quale non si può più fare a meno di sapere tutti le stesse cose nell'ottica di una massima trasparenza, però certamente il singolo cittadino non deve preoccuparsi di iniziative da prendere di persona, deve semplicemente guardare, seguire le raccomandazioni di normale igiene personale. Poi abbiamo detto che soprattutto per i viaggiatori, in questo caso abbiamo registrato solo casi esportati dal Messico, sì, e un piccolo focolaio negli Stati Uniti, e in questo caso è chiaro che invece per i viaggiatori qualche raccomandazione di attenzione in più c'è, compreso il fatto che si è invitato i coloro che sono tornati da viaggi nelle zone in cui sono state registrate una circolazione locale di stare, diciamo, un po' separati dal resto della comunità per 7 giorni. Questo semplicemente perché adesso tutti gli sforzi sono quelli di ritardare l'ingresso, la diffusione di questo nuovo virus influenzale nel nostro paese. Dottoressa Salmaso, io la ringrazio per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie, arrivederci. Buon lavoro. Allora, oggi una puntata giocata sulle sfumature. Parliamo di tutte quelle sensazioni che avvertiamo a fior di pelle, ma che a volte migrano anche ai livelli più profondi e da fastidiose possono diventare dolorose. Voglio farvi qualche esempio. Il formicolio, chi non lo conosce? A volte il formicolio si trasforma, si fa pungente e provoca un dolore simile proprio alle punture di spilli. O ancora, quella sensazione così sgradevole di addormentamento che può interessare un braccio, un piede, una gamba, a volte si trasforma in un dolore diffuso, sordo, più profondo. Oppure, ancora un altro esempio, non avete mai avuto l'impressione di avere di toccare con la mano un oggetto e di avere come l'impressione che la vostra sensibilità sia ridotta o al contrario esagerata? Allora, abbiamo una puntata intera per descrivere queste strane sensazioni, questi strani messaggi che arrivano dal nostro corpo. 800 24 00 24, ci aiuta il professor Giorgio Crucu, ordinario di Neurologia della Sapienza di Roma e autore di numerose pubblicazioni sul dolore neuropatico. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta. Professore, allora, ne abbiamo da descrivere, da parlare, da raccontarci, fino a mezzogiorno staremo insieme. Formicolio, fitte dolorose, bruciore, ma anche quelle scossette, quella sensazione di intorpidimento. C'è un denominatore comune per queste sensazioni che spesso non sappiamo neppure come descrivere bene? A volte sì, diciamo, io farei una distinzione tra delle sensazioni che sono più generiche, possono avere, essere prodotte da diverse situazioni, tipo il formicolio o il senso di intorpidimento. Sì. Certo che quando si avvertono invece fitte dolorose, scosse e addirittura mancanza di sensibilità o perdita di forza, è certamente purtroppo una malattia neurologica che potrebbe originare sia nel cervello, nel midollo, però più frequentemente dei nervi, le malattie dei nervi periferici. Oggi quindi, professore, noi staremo un po' in bilico tra fastidio e dolore, e a volte tra le due situazioni il confine è molto labile, senza contare poi, professore, che ciascuno di noi ha un modo molto personale, tutto suo, di sentire e di sopportare il dolore. Forse parleremo anche di questo, ma sarebbe, mi piacerebbe, se magari lei ha la risposta, capire come mai quello che per una persona è leggermente fastidioso, per un'altra è insopportabile. Questo è un argomento che noi che ci occupiamo del settore riveste un grandissimo interesse. La sensibilità dolorifica è filogeneticamente molto antica, cioè nasce negli animali primordiali. Sì. E noi, l'Homo sapiens, non le ha sostituite o abolite, ce le ha tutte queste antiche vie e questi neuroni più elementari, che si trovano nel cervello più profondo. Sì. E quindi si legano moltissimo a aspetti di tipo emotivo e affettivo, sicché e risentono anche di aspetti cognitivi, quindi anche del livello di educazione, della propria storia, sicché tra una persona e l'altra ci sono molti studi psicofisiologici che dimostrano una diversa attitudine nei confronti del dolore. Ci sono state anche delle esagerazioni, tipo, mi ricordo anni fa, una ricerca americana che voleva dimostrare che nelle donne di origine latinoamericana la soglia al dolore era più bassa rispetto a quelle di origine anglosassone. Però è comunque dimostrato che aspetti di tipo educazionale ed emotivo contano moltissimo, anche un'esperienza di tutti noi che a seconda della giornata anche... Anche a seconda del momento della giornata, del momento della vero? Giornata, cioè anche, diciamo, delle diversità tra individui forse più determinati da aspetti di fondo come quelli che abbiamo detto prima, però anche all'interno dello stesso individuo tutti sappiamo che se io mi sveglio con un mal di testa, però poi dopo devo correre a prendere l'aereo, c'è una cosa importante, il mal di testa mi passa. Se invece rimango, e domenica mattina rimango a letto e sentire come va, sicuramente il mal di testa mi peggiora, vi sarà capitato. Lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, che invitiamo a chiamare il nostro numero verde 800 24 0024 per parlare di tutte queste sensazioni, questi messaggi che il nostro corpo ci invia in bilico tra il fastidio e il dolore. I messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Adesso osservate la vostra fronte se potete, ma immagino che anche se non avete uno specchio a disposizione potete dirmi qualcosa di lei. Le preoccupazioni, o meglio i pensieri, la segnano, lo sappiamo bene, ci sono persone che hanno rughe sottili che corrono lungo la fronte, ma a peggiorare la situazione si aggiungono quelle due brutte rughe verticali più o meno profonde che partono dalle basi delle sopracciglia e scendono giù verso il naso e ci regalano quell'espressione di stanchezza che certo non giova nessuno, ma voi non preoccupatevi, non aggrottiamo la fronte perché sennò peggioriamo la situazione, ma ci affidiamo ai consigli della dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Dottoressa Serri, buongiorno e bentornata. Grazie, buongiorno. Allora, le rughe della fronte sono un cruccio, è vero che noi donne possiamo coprirle con una frangia, ma sì, comunque ci sono, si vedono. Ma... un cruccio, Nicoletta, le rughe della fronte possono anche essere carine. Teniamo presente che in genere le rughe antipatiche che invecchiano il volto sono quelle verticali. Sì. Quelle orizzontali invece sono rughe relativamente, chiamiamole allegre. Sì. Quelle verticali della fronte sono le rughe glabellari e sono dovute al continuo corrucciamento, che può essere sia legato a momenti di arrabbiatura, sia anche a disturbi della vista. Io per esempio le ho perché sono ipermetrope, allora per mettere a fuoco corruccio un po'. Corrugo, ecco. Mentre le rughe orizzontali sono chiamate anche le pieghe del sognatore, perché sono proprio tipiche di chi alza la fronte in modo un po' sognante, e non sempre vanno proprio viste con orrore, anzi possono essere un segnale simpatico di un volto sognante. Stiamo imparando ad amarle un po' di più queste rughe, dopo anni in cui a tutti i costi si dovevano cancellare. Adesso stiamo vedendo un po' i risultati dei visi senza rughe, che sembrano abbastanza di plastica, tutti uguali, e quindi facciamo ancora amicizia con le nostre rughe più o meno profonde. Comunque, dottoressa Serri, il problema è che spesso, anche quando ci spalmiamo la crema al mattino, la fronte la dimentichiamo un po'. Allora, quanto è importante il massaggio e quali creme fanno bene alla nostra fronte? Non abbiamo delle creme specifiche per fronte, ma sicuramente qualche indicazione in più lei è in grado di darcela. Noi prendiamo appunti. Certamente. Innanzitutto è molto importante ricordarsi, quando si va al sole, di mettere sempre una protezione solare, perché sulla fronte arriva proprio il sole molto diretto e picchia forte, diciamo. Sì. In più, se si indossano occhiali da sole, il riflesso va sulla fronte e sulle guance. Poi sicuramente mettere una crema sia alla mattina sia alla sera, adatta al proprio tipo di pelle. Io sono sempre dell'idea che le creme che hanno fattori di protezione cellulare, per esempio antiossidanti, contenenti vitamine, contenenti vitamina C, vitamina E, vitamina A, tutte le vitamine del gruppo B, e poi fattori anche oli vegetali, burro di karité, acido ialuronico, fattori idratanti, sono tutte molto utili. Vanno però scelte in base al proprio tipo di pelle. Sì. Molto utile è proprio il massaggio. Quando ci si mette una crema è bene distendere la fronte e massaggiare bene. Un esercizio che si può fare durante la giornata è quello di mettere due dita, farsi dell'autoshatsu, chiamiamolo. Sì. Mettere due dita proprio dove c'è l'attaccatura dei capelli, sì, dove ci sono le rientranze proprio del bordo del capilizio, e premere per 6 secondi, rilasciare, ripremere, e lo stesso fare sulle sopracciglia. Sì, lo questo sto facendo. Aiuta a distendere la fronte, e perché il rilassamento della muscolatura della fronte aiuta anche a impedire che le pieghe mimiche, sia quelle orizzontali sia quelle verticali, si approfondiscano sempre di più. In pratica, durante la giornata è importante ogni tanto ricordarsi di rilassare la muscolatura del volto. E questo è importante, è un esercizio che ci rilassa, ci dà una sensazione di relax generale. Se ci concentriamo sulla fronte, magari riusciamo ad alleggerirci anche di qualche problema. Dottoressa Serri, io la ringrazio per essere stata con noi, proveremo questi suoi consigli e le faremo sapere. Intanto poi con la dottoressa Serri, di settimana in settimana, ci occuperemo di alcune zone del nostro viso. Siamo partiti dalla fronte, la prossima settimana parleremo della zona perioculare, che anche quella è sempre segnata, dottoressa Serri, per cui lì avremo bisogno sicuramente dei suoi consigli, sino a scendere, sino al collo. Dottoressa Serri, quindi a lei un appuntamento per la prossima settimana. Perfetto, grazie. Sono molto contenta, anche perché le rughe non vanno combattute, vanno migliorate. Noi non dobbiamo spianarci, ma dobbiamo essere sempre più belli. E ce la faremo. Grazie, dottoressa Serri. Buongiorno e buon lavoro. Pronto soccorso. Professor Crucu, oggi invece con lei non parleremo di rughe, ma a lei confesseremo tutti quei piccoli disturbi di cui spesso a volte non parliamo neanche con il nostro medico, proprio perché talmente strani e sfumati. Abbiamo parlato di formicolio, punture di spillo, quella sensazione di intorpidimento, mano fredda, che non vogliamo neanche fare, professore, la figura di quello che si lamenta di gamba buona. Ma noi abbiamo invitato i nostri ascoltatori da casa a chiamarci per lamentarsi, o almeno provare a descrivere quello che arriva di strano dal loro corpo, e abbiamo subito Domenico da Taranto che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Domenico, buongiorno. Buongiorno a lei, io ringrazio per avermi chiamato. Volevo far presente al professore questo: all'attacco della coscia esterna destra sento spesso un formicolio con una circonferenza di circa un 25-30 centimetri. Sì. Quello che è strano però è che quando appoggio la mano sembra come se si appoggiasse un blocco di ghiaccio su dove è la zona del formicolio. Quindi quello che mi è sembrato strano e quindi mi ha spinto a telefonare è proprio questa differenziazione rispetto a eventuali altre formicolie che possono venire così ogni tanto in qualche altra zona. Perché lei sente, oltre al formicolio, Domenico, anche questa sensazione di freddo. Esatto, io praticamente anche quando si appoggia il pantalone sulla zona così, oppure metto la mano, a parte la sensibilità inferiore rispetto ad altre zone, quello che sento è come se si appoggiasse un pezzo di ghiaccio. Professor Krupp, ecco. Lei ha gli elementi necessari per provare? Sì, le bastano. Sì, bastano, perché è stato molto, bravo, è stato molto chiaro, perché ha descritto sia una parestesia aspecifica come il formicolio, ma anche un tipico sintomo di dolore neuropatico che è appunto la trasformazione di una sensazione. E questo che lui avverte sulla superficie anterolaterale della coscia, io se ho ben capito, è sicuramente di interesse neurologico e può essere due cose. La prima è una sofferenza radicolare che parte da qualche problema alla colonna vertebrale che interessa la radice L2 e L3. Sì. E l'altra è una condizione tipica del maschio di corporatura un po' abbondante che si chiama meralgia parestesica. Che nome? Sì, ma vuol dire appunto che c'è un'algia. Quindi a un dolore della gamba con anche parestesia, insomma, ed è invece una compressione di un nervo che ha un nome lunghissimo, nervo femoro cutaneo laterale della coscia, che provoca questo tipo di sensazioni inizialmente, poi può produrre un'anestesia di tutto quel territorio. Per capire se si tratta del nervo o della radice o della schiena, bisogna fare una elettromiografia, che è un esame di cui abbiamo parlato spesso, ma professore, vogliamo ripetere se è un esame, tanto magari tra i nostri ascoltatori. Ecco, allora, se vi interessa, più che un'elettromiografia, un esame elettroneurografico in cui non si usano aghi, ma si usano solo elettrodini di superficie come quelli da elettroencefalogramma. Quindi non fa male. In cui si misura il potenziale sensitivo di questo nervetto. E se questo è normale è la radice, se è alterato è il nervo. La difficoltà è che, essendo un nervo molto sottile e passando per la coscia, che invece è bella grossa, se il soggetto è di grossa corporatura, a volte non si riesce a registrare. È difficile beccarlo, come dice. Esattamente. Intanto la ringrazio per l'indicazione e andiamo rapidamente a Bergamo perché ci chiama Maria. Buongiorno. Buongiorno. Ci racconti, Maria, che succede? Allora, io soprattutto la notte quando mi corico, e soprattutto sul lato destro, sento un formicolio che parte dalla mano, raggiunge la spalla fino alla mancanza di sensibilità. Sì. Quindi devo prendere il braccio, buttarlo dal letto, ciondoloni, allora sento... Si ripiglia, si rianima. Esatto. Avevo fatto l'esame, il tunnel carpale, questo 5-6 anni fa, ed era risultato negativo. Mi ha detto poteva essere questo, avevo fatto l'esame negativo e quindi adesso non so più cosa. E certo, professor Krupp, molti dei nostri ascoltatori, anche quando abbiamo parlato di tunnel carpale, ci dicono: dall'esame non risulta nulla, eppure ho tutti i sintomi che vengono descritti per il tunnel carpale. Che cosa può essere? Ma l'esame fatto male, ecco, oppure questa è la prima cosa che stavo per dire, perché se la sintomatologia è quella, l'esame, diciamo, poi nel sinale del tunnel carpale è talmente chiara che la diagnosi clinica di solito è esauriente. Quello che l'esame deve dirci è se è di una gravità tale che bisogna operarlo subito oppure no. Quindi mi sembra un po' strano, soprattutto vorrei sapere da Maria? Nostro ascoltatore, da Maria, se lei fa il gesto di scrollare il polso, di muovere la mano su e giù, che è tipico del tunnel carpale oppure no? Sì, tendo proprio a chiudere e aprire la mano e a buttare il braccio giù. Allora, io penso che sia proprio tunnel carpale, anche se sente la sintomatologia molto più in alto al braccio. Questa è una cosa nota per un motivo complicato, ci sono degli afferenti dai muscoli prossimali del braccio che convergono nel midollo sugli stessi che provengono dalla cute della mano e quindi la sensazione fastidiosa si estende anche al braccio. Allora, l'alternativa Maria... naturalmente è che invece abbia un disturbo in qualche modo di circolo, cioè dell'arteria succlavia, in cui il posizionamento fa sì che produce un'ischemia. In questo caso lei però dovrebbe sentire che l'arto è molto freddo. Allora, a Maria l'indicazione di rifare, di andare ancora a fondo per vedere se si tratta di tunnel carpale. Siamo tornati insieme, in linea con noi abbiamo il professor Giorgio Crucu, che è ordinario di neurologia della Sapienza di Roma e autore di numerose pubblicazioni sul dolore neuropatico, con cui parliamo di fastidio e dolore. Quindi se avvertite formicolio, punture di spilli, sensazione di addormentamento della mano, vi sentite una mano più fredda, oppure vere e proprie sintomi di dolore come ad esempio i crampi o le sensazioni crampiforme, o se la vostra pelle, tutta la pelle a lamentarsi, quasi che con il contatto anche solo con un lenzuolo, con un asciugamano, vi fa vedere le stelle, chiamateci 824 0024, il professore rimane con noi. Intanto andiamo a sentirci le novità che arrivano dal mondo della ricerca e della medicina, che sono commentate oggi per noi dal professor Giuseppe Remuzzi, che è coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. GR Salute. Gravidanza, la scienza dà ragione a un detto popolare. C'è un vecchio modo di dire che afferma che una gravidanza difficile vuol dire che nascerà un maschio. Il detto popolare sembra ora confermato da una ricerca scientifica condotta in Israele. I medici hanno esaminato 66.000 donne gravide e hanno scoperto che quelle che davano alla luce un maschio avevano avuto più spesso problemi delle mamme che avevano partorito una bambina. Questo studio conferma i dati di una precedente ricerca che ha studiato più di 90.000 gravidanze negli Stati Uniti. Insomma, avere un maschio è un po' più pericoloso. Forse sono le dimensioni della testa, oppure gli ormoni, gli androgeni per esempio. Ancora non si sa bene. Broccoli al nostro stomaco fanno davvero bene. Mangiare i broccoli potrebbe ridurre il rischio di tumore dello stomaco, perché questo ortaggio protegge almeno in parte contro l'Helicobacter pylori, un germe che causa gastrite, ulcere e anche tumore dello stomaco. È il risultato di un piccolo studio pilota condotto su un gruppo di 50 persone in Giappone che per 2 mesi ha mangiato ogni giorno almeno 80 grammi di germogli di broccoli. Al termine dello studio, i livelli di un certo antigene che misura la presenza del germe si era ridotto di più del 40%. Smettendo di mangiare i broccoli, il livello di questa proteina tornava a quello di prima, indicando che la verdura aveva ridotto ma non debellato il germe. Anche se non è la cura per le gastriti da Helicobacter, consumare broccoli può comunque essere una buona cosa per la salute. Professor Crocu, abbiamo moltissime telefonate che arrivano all'824 0024. Cercheremo da ogni racconto dei nostri ascoltatori di dare anche dei consigli generali. Abbiamo in linea con noi, che ci aspetta da un po', Cosimo, che ci chiama dalla provincia di Varese. Cosimo, buongiorno. Oh, buongiorno. L'ho fatta attendere. Magari non poco, mi scusi, magari le si è addormentata la mano con cui teneva il telefono? No, però intanto controllo la mia coscia sinistra, che è quella che è causa del mio problema. Spesso e volentieri la sensazione di avere una sensibilità leggermente inferiore a livello proprio cutaneo, sfiorandola, rispetto alla destra. Poi altra cosa che succede, non so se è in comune il problema a questo primo, la pennichella d'ufficio, quindi testa appoggiata sulla scrivania un quarto d'ora, 20 minuti, e vado in, adesso non so se parestesia, formicolio è la stessa cosa. Sì. Comunque ho questa sensazione di addormentamento degli arti bassi e anche delle... O se vado in bicicletta, per esempio, bicicletta mi capita spesso un quarto d'ora, 20 minuti di pedalata, e degli spilli del formicolio fortissimo alle parti intime proprio. Mm. Ed è una roba atroce, speciale per noi maschietti. Immagino Cosimo, meno male che abbiamo il professor Cruccu, a cui chiedo, tanto che risponde al nostro amico Cosimo. Anche Cosimo dice, ma mi sembra, ho la sensazione di, come facciamo a capire se quello che sentiamo è reale oppure una nostra impressione? Professore. Quindi per rispondere prima a questa ultima domanda. Sì, perché così entriamo da Cosimo che ci dice, sì, ho proprio la sensazione, e quanto ci ha raccontato Cosimo che mi ha spinto, sì, a farle questa domanda, perché allora, tante per volte... Allora, per valutare le sensazioni di addormentamento o di ridotta sensibilità, sì, bisogna distinguere se sono appunto solo delle sensazioni o se c'è effettivamente un cattivo funzionamento, un, certo, deficit della sensibilità, che naturalmente è molto più importante che non la mera sensazione. E, non bisogna cercare di farlo toccandosi e basta, perché l'informazione è disturbata dalla sensibilità che hanno le dita che stanno testando. Certo. Quindi bisogna utilizzare qualcosa e questi strumenti sono estremamente semplici. Addirittura secondo le linee guida europee lo strumento migliore per testare la sensibilità tattile è un semplice batuffolo di cotone e ho un cotton fioc, sì, mentre invece per la sensibilità dolorifica lo stuzzicadenti di legno. Questo è proprio consigliato anche sì, è una sorta medici di autotest, quindi così, sì, già abbiamo un'idea di quello che, se la nostra è una sensazione oppure qualche cosa di reale. Poi ci saranno delle indagini ulteriori, ma già questo, e possiamo suggerirlo a Cosimo e ai nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo. Cosimo riferiva questa sensazione, questa ridotta sensibilità alla gamba, e poi ci chiedeva ci raccontava della sua pennichella pomeridiana, la pennichella da ufficio, come l'ha chiamata lui, e da cui si sveglia tutto indolenzito. Un indolenzimento è anche un prurito, un fastidio che lui avverte anche quando va in bicicletta, soprattutto nelle parti, nella zona genitale. Professore. Sono tante cose diverse, secondo me. Cioè, cominciando dalla più semplice, essendo anch'io un ciclista, è chiaro che il maschio lì patisce una compressione e quindi potrebbe essere un disturbo circolatorio che produce formicolii dopo aver prodotto l'anestesia, certo, a un certo momento quando le fibre ricominciano a funzionare hanno un'attività abnorme che è un po' fastidiosa. Per quanto riguarda invece i formicolii diffusi agli arti inferiori dopo che lui sta, se ho ben capito, chino seduto in avanti, sì, no? Quando fa la pennichella, e lì potrebbe essere anche un problema di colonna vertebrale. Però i dati che abbiamo sono un po' pochini questa volta, gli altri due casi erano più netti. E, il disturbo che sensitivo che ha la coscia, io invece ho capito che è stabile, sì, non transitorio, così? Sì, a me è sembrato così. Cosimo però ci sta ascoltando per radio, diciamo, se è stabile che cosa le viene in mente, professore? Se è stabile mi viene in mente che lì c'è effettivamente un problema, perché se c'è un deficit sensitivo in quel territorio, se è tutta la faccia anteriore della coscia e anche un pochettino che scende lungo la tibia è il nervo femorale. Se invece è una parte della coscia verso il ginocchio potrebbe essere una sofferenza radicolare. Lui ha avuto mai mal di schiena? E questa domanda la facciamo a Cosimo e a tutte le persone, quindi, professore, che avvertono questi dolori a livello della coscia, perché la schiena potrebbe essere in qualche modo implicata, vero professore? Certamente. Quindi soprattutto anche, abbiamo parlato anche tante volte proprio di una sorta di test per valutare l'origine del mal di schiena con lei, sì, e noi sappiamo che quando il dolore dalla schiena migra e scende anche verso verso la gamba, lì si pensa alla sciatica, e quindi è un dolore molto fastidioso che va indagato, che si può comunque curare e affrontare. Prima di continuare a lamentarci di queste sensazioni fastidiose che a volte diventano dolorose, il nostro numero verde a vostra disposizione 824 0024, andiamo al nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola A Nuda Voce. Per riceverlo dovete essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it con il vostro recapito, il numero telefonico e naturalmente il titolo del libro. E di voce parleremo proprio domani con tanti esperti. In collaborazione con IBS.it. Professor Crucu, abbiamo capito con i suoi suggerimenti come individuare la sensazione, quello che può sembrare solo a noi, da qualche cosa che realmente proviamo. Lei faceva riferimento al cotton fioco, al cotone, per quelle sensazioni legate, se vogliamo, alla perdita di sensibilità, mentre la sensazione dolorosa faceva, ci diceva che è utile lo stuzzicadente, quello di legno, giusto? Sì, sì. A volte però dovremmo fare come San Sebastiano, perché trafiggerci tutti di stuzzichini, perché il problema è che molte persone, me lo stanno scrivendo, avvertono un po' dolore a fior di pelle su tutto il corpo, quasi che il contatto anche con i vestiti, l'asciugamano al mattino quando tamponiamo il viso, piuttosto anche con lo stesso lenzuolo, come capita a Carlo, diventa fastidioso. Un'ipersensibilità, che cos'è? Il termine tecnico è allodinia, sì, che vuol dire che esiste una perturbazione della trasmissione della sensibilità che da stimoli assolutamente innocui, quali appunto il contatto con la camicia o il lenzuolo, riesce in qualche modo a attivare la via dolorifica e diventa dolorosa, producendo sensazioni che di volta in volta possono essere di bruciore o di piccole scosse, che rendono la vita particolarmente difficile al paziente. E poi ci sembrano molto strane, perché provocati da stimoli assolutamente innocui. Allora, cosa succede? Come si può spiegare questa ipersensibilità, questa eccessiva risposta? Abbiamo in linea con noi il professor Nicoletti, che è ordinario di farmacologia all'Università La Sapienza di Roma, pronto a rispondere. Buongiorno, professore. Sono qui, buongiorno, molto piacere. Allora, professore, già il professor Crucu ha anticipato un po'. Crucu, che saluto. Ciao Giorgio. Ciao Fernando. Buongiorno, mi fa piacere, così siamo tutti qua come sì, in un salottino. Senta, professor Nicoletti, che come si può spiegare? Perché? Che cosa si attiva? Ma guardi, accade questo, il nostro sistema nervoso ha una sorta di inclinazione naturale a ricercare le cose belle e piacevoli e ad allontanarci prontamente dagli eventi nocivi o dalle cose dolorose, sì, che è abbastanza intuibile. Questo lo fa attraverso delle vie nervose che rispettivamente si chiamano vie della gratificazione o del piacere, che chi si occupa di droga conosce molto bene. Invece dall'altra parte ci sono le vie del dolore, che hanno come scopo unico quello di allontanarsi dall'evento nocivo, allontanarsi dall'insulto. Sì. E qui la natura è stata un po' strana, ha applicato un po' di sadismo, perché in genere quando uno stimolo gratificante, per esempio del buon cibo, un rapporto sessuale, qualcosa del genere, è ripetuto nel tempo, le vie della gratificazione e del piacere si attenuano nella loro risposta, è come se ci si abituasse un po'. Mentre invece al contrario, quando un insulto, uno stimolo nocivo comincia a persistere, le vie, sì, del dolore amplificano la loro risposta. Quindi questo è molto interessante, vie del piacere e vie del dolore che si comportano in maniera opposta. Questo può sembrare un po' strano, come dicevo, un po' sadico, ma tutto sommato è abbastanza logico. Certo. Immagino, perché ci protegge. L'amplificazione delle vie del dolore è un meccanismo difensivo fondamentale per la funzione del nostro sistema nervoso, è assolutamente prioritario allontanarsi dagli stimoli pericolosi. Questo tipo di meccanismo amplificante viene chiamato in gergo sensibilizzazione nocicettiva, significa che il sistema si sensibilizza agli stimoli dolorosi. Questo avviene dappertutto nelle vie del dolore. quindi avviene nell'estrema periferia dove ci sono i sensori del dolore che noi in gergo chiamiamo nocicettori. Sì. Poi avviene nel midollo spinale dove entrano le fibre che provengono dalla periferia e trasportano la sensibilità che poi viaggia verso le stazioni più alte del cervello, e avviene anche all'interno del cervello, in alcune parti del cervello che sono fondamentali per le risposte emozionali al dolore. La cosa che penso da un punto di vista scientifico sia assolutamente affascinante è che i meccanismi responsabili di questa sensibilizzazione nocicettiva, cioè questa amplificazione della risposta dolore, sono in realtà molto simili ai meccanismi di apprendimento. Cioè, se per esempio io cammino per strada e incontro lei, dottoressa, immaginiamo che ci conosciamo da parecchio tempo, io immediatamente la riconosco e la saluto rispetto a tante altre persone, perché i circuiti nervosi che creano la sua immagine nel mio cervello si attivano. Sono rinforzati, non solo si attivano, ma sono rinforzati rispetto ai circuiti nervosi che mi determinano l'immagine di tutte le altre persone vicino a lei. Quindi si crea una sorta di segnale sul rumore di fondo, io immediatamente riconosco lei e così scatta il meccanismo di memoria. La stessa cosa avviene per la sensibilizzazione nei confronti del dolore. Nel midollo spinale noi abbiamo una cellula nervosa molto particolare, in termini tecnici si chiama neurone ad ampio spettro dinamico, e questa è una cellula che riceve sia informazioni da parte degli stimoli innocui, per esempio la sensibilità tattile, quella alla quale faceva riferimento con lo strofinio del cotone, eccetera. E poi riceve allo stesso tempo delle fibre che invece trasportano dolore. Quindi c'è una sorta di memoria che si attiva del dolore. Sì, questa cellula in condizioni normali, per esempio in me, in lei, che non abbiamo del dolore cronico, riesce a discriminare perfettamente lo stimolo tattile innocuo dallo stimolo invece doloroso, perché risponde in maniera diversa. Se però c'è qualcosa di patologico in gioco, per esempio la lesione ad un nervo, un'infiammazione cronica che dura per molto tempo, o c'è un tumore, qualcosa del genere, e questa cellula si confonde, risponde in maniera esagerata e per esempio trasforma degli stimoli innocui, quindi stimoli che normalmente vengono percepiti come stimoli tattili, li trasforma in stimoli dolorifici. Quindi esattamente come io riconosco lei per strada, questa cellula patologicamente crea una memoria che teoricamente non deve avere ragione d'essere, però è lì, e a questo punto uno stimolo tattile viene interpretato come stimolo dolorifico. Professor Nicoletti, questo è veramente un mondo veramente molto affascinante su cui noi torneremo e su cui la ricerca sta indagando. Mi piace lasciare questo sorta di messaggio che i meccanismi molecolari del dolore sono simili a quella dell'apprendimento. Professore, io la saluto, la ringrazio, le auguro una buona giornata. Tanto, siete stati molto gentili, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao Giorgio di nuovo e a presto. Professore, noi abbiamo un minuto, volevo chiederle rapidamente questo. Noi di solito se abbiamo un dolore superficiale non riusciamo neanche a sfiorare la nostra pelle, mentre se il dolore lo sentiamo a livello più profondo ci viene istintivo massaggiare la parte. Ha un senso tutto questo? C'è qualche cosa che lo spiega? Mi sembra che ormai gli studi abbiano un po' in qualche modo fatto luce su questo istinto di reazione al dolore. Ce la facciamo spiegare in 30 secondi? Così sappiamo se ci dobbiamo massaggiare o no. Beh, ma non c'è bisogno di saperlo a priori, perché l'istinto già ce lo dice cosa fare. È un esempio di esperienza tramandata dalla medicina popolare di cui ora sappiamo i meccanismi di funzionamento. Sicuramente se abbiamo un dolore superficiale abbiamo una condizione di ipersensibilità degli organi sensori, quindi se comunque li andiamo a sfrugliare amplifichiamo la sensazione fastidiosa. Quindi è normale, se uno c'ha un taglio non se lo va a toccare. Certo. Mentre invece quando c'è il dolore profondo, se noi facciamo una stimolazione vigorosa della cute sovrastante, attiviamo tutte le fibre tattili, che sono fibre più moderne nell'evoluzione, hanno un potere gerarchico superiore rispetto a quelle dolorifiche. Quando entrano nel midollo sì, inibiscono quelle dolorifiche che provengono dal territorio sottostante. Quindi possiamo farci trasportare dall'istinto. Un bel massaggio se il dolore è profondo e in qualche modo aiuta. Professore, torneremo sicuramente su questo tema che ha veramente suscitato grande interesse da parte dei nostri ascoltatori. Invito chi non è riuscito a mettersi in contatto con noi, il tempo non ha permesso di mandare in onda tutte le vostre chiamate, di iscriverci a essere benessere@radio24.it. chiederemo al professor Crucco di rispondervi. Professore, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a lei, Nicoletta, saluti. E noi ci sentiamo come sempre domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone.